verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Mese di aprile dedicato all'università che si è dovuta adattare alle nuove esigenze dettate dal coronavirus nei nostri appuntamenti settimanali con i podcast di Verso il futuro e oltre. Un'università che da un giorno all'altro ha cambiato praticamente di secolo, un po' come la scuola, l'abbiamo raccontato anche questo nei nostri podcast del mese scorso. Tutta la didattica si è trasferita online con 1.200.000 studenti che seguono le lezioni da casa, più dell'80%, così almeno dice la conferenza dei rettori. Gli esami a distanza si fanno nel 95% degli atenei, le discussioni delle tesi stanno andando avanti da remoto. Naturalmente sono stati necessari alcuni interventi. L'anno accademico quest'anno è stato prolungato, durerà fino a giugno 2020. Si sta valutando anche di sostenere gli affitti agli studenti fuori casa e in generale il diritto allo studio. Insomma, superata la primissima emergenza, è arrivato il momento di pensare a come strutturare meglio il lavoro da qui in avanti, come superare le criticità, come per esempio gli esami scritti, i tirocini, solo per citarne alcuni, e soprattutto come avviare la fase di riavvio, di restart, l'ha definita qualche giorno fa il ministro dell'Università Gaetano Manfredi in audizione alla Commissione Cultura e Istruzione della Camera. Per quanto riguarda invece il tema del restart, noi stiamo valutando di avere un progresso, diciamo, di dividere la fase di restart in due fasi: una prima fase di completamento di questo semestre, cioè fino a luglio, che essenzialmente ci consente le attività individuali all'interno dell'università in presenza, cioè una ripresa delle attività di ricerca che sono essenzialmente svolte in piccoli gruppi o da singoli all'interno dell'università, mentre diciamo ancora tenere in virtuale tutte quelle che sono le attività collettive, dalle lezioni, le lezioni in presenza. Mentre avere un modello misto che parta da settembre, che garantendo quindi condizioni di sicurezza avvia alcune attività in presenza anche, diciamo, per quanto riguarda l'attività formativa, con un sistema molto flessibile di tipo blended, di tipo misto, che possa essere adattato anche alle diverse realtà territoriali, alle diverse dimensioni universitarie, ma anche alle diverse dimensioni dei corsi di laurea universitari che hanno tassi di affollamento molto diversi uno dagli altri. Questa dunque la strategia per il restart, la ripartenza degli atenei. Molte ombre però si addensano su questa ripartenza. Tutte le università ci raccontano che sta andando tutto abbastanza bene, che la didattica a distanza sta marciando alla grande, che non ci sono problemi per gli esami, che i docenti si stanno dando da fare, che anche le sessioni di laurea si stanno svolgendo online. In realtà un po' di problemi ci sono, e come. Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario. Allora, in questo momento non è molto chiaro quello che si sta decidendo rispetto alla riapertura. Preoccupano un po' quelle che sono state le ultime dichiarazioni del ministro, in cui si parla di una riapertura diciamo differenziata tra i vari atenei, quindi alcuni che riaprono già a settembre, altri successivamente. È chiaro che se l'emergenza sanitaria necessiterà in qualche modo che gli atenei rimangano chiusi, penso che sarà l'unica cosa da fare. Il problema è un po' diciamo già decidere adesso questo tipo di misura senza appunto sapere quale sarà davvero la pericolosità, e soprattutto non si capiscono bene quali siano i criteri ad oggi che verranno utilizzati per questa fase differenziata di riapertura. Sicuramente se anche il prossimo semestre sarà online, bisognerà rivedere un po', diciamo, la situazione della didattica a distanza, perché in questo modo, cioè, continuare così per tanto tempo penso possa essere, diciamo, profondamente problematico per gli studenti. Quindi da un lato penso che sia necessario che si ripensi a una riapertura già a settembre, se l'emergenza lo permette, per tutti gli atenei, altrimenti chiaramente bisognerà trovare delle misure che rendano la didattica a distanza effettivamente sostenibile. Ecco, toni ottimistici quelli del ministro Manfredi sulla didattica a distanza. Sta davvero funzionando tutto molto bene negli atenei? Qual è il panorama che avete voi dal punto di vista appunto degli studenti? Sicuramente c'è stata un'attivazione abbastanza celere da parte degli atenei, questo sicuramente è stata una, un elemento positivo. Il problema è che chiaramente non tutto funziona bene, in primis perché chiaramente già esistevano delle forti differenze tra gli atenei, sia in termini di risorse sia in termini di organizzazione. Anche alcuni atenei avevano già servizi di teledidattica, mentre altri si sono dovuti attrezzare anche in modo più sbrigativo per rispondere in modo immediato all'emergenza, e questo chiaramente crea delle diversità. Esistono chiaramente ancora dei problemi, prima di tutto perché chiaramente la didattica in presenza riesce anche a creare confronto, a creare un dialogo all'interno delle aule universitarie tra studenti e docenti, mentre chiaramente per la didattica a distanza questo non è possibile, ma restano irrisolte molte questioni, tra cui la possibilità di dare gli esami, in particolar modo gli esami scritti. Questo riguarda appunto in particolar modo quelle facoltà in cui gli esami non si possono trasformare in esami orali, ma bisogna farli scritti, e ad oggi ancora molte università non hanno sistemi in grado di permettere questo tipo di meccanismo, insomma, e questo rischia di far perdere tempo agli studenti. Quali altre questioni restano aperte al di là della didattica a distanza? Il rischio fondamentale, dovuto principalmente a quella che sarà la crisi economica che verrà dopo la crisi sanitaria, sarà appunto la possibilità per gli studenti di andare all'università, di iscriversi all'università l'anno prossimo, perché chiaramente con la contrazione dei redditi delle famiglie molti rischieranno effettivamente di non potersi più permettere di iscriversi all'università, sia ad esempio una difficoltà nel pagare le tasse universitarie, ma anche pagare gli affitti, cosa che appunto potrebbe compromettere seriamente il percorso di studi. Questo rischia di far abbassare le immatricolazioni o di incrementare gli abbandoni, e potrebbe essere un duro colpo per il sistema universitario in generale. L'altra questione è il diritto allo studio. In questo momento noi stiamo chiedendo che vengano rielaborati, vengano ridefiniti quelli che sono i requisiti di merito per accedere alle borse di studio e ai posti alloggio, di modo che qualora alcuni studenti abbiano perso degli esami appunto proprio per l'emergenza, possano comunque accedere ai servizi del diritto allo studio il prossimo anno. Oltre a questo stiamo chiedendo appunto anche una rimodulazione delle tasse universitarie e un contributo affitto per tutti gli studenti fuori sede, di modo che appunto i problemi economici poi non impattino sulla possibilità di frequentare l'università, anche perché chiaramente più persone possono accedere a un percorso universitario ne beneficia tutto il paese in questo senso qui, e quindi sicuramente devono essere messe in campo delle misure su questo. Tante dunque, lo sentivamo, le questioni che rimangono aperte. Una fra queste, non di poco conto, è quella dei test di ingresso all'università. Molti atenei gli altri anni di questo periodo avevano già iniziato a somministrarli. Il coronavirus ovviamente ha fermato tutto. Ma è tempo di guardare avanti e di organizzarsi in qualche modo. 200.000 i ragazzi che in tutta Italia lo scorso anno hanno affrontato un TOLC, un test online erogato dal CISI, al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso. Composto da 50 università, il CISIA nasce proprio come supporto per valutare l'adeguata preparazione d'ingresso degli studenti e per comporre le graduatorie nelle facoltà che prevedono il numero programmato. A causa dell'emergenza coronavirus e degli atenei chiusi, si va verso i TOLC a casa, dalle aule fisiche negli atenei alle aule virtuali, ognuno dal salotto di casa propria. Test con non più di 25 candidati che verranno sorvegliati attraverso webcam e microfoni e i commissari d'esame a controllare le inquadrature. Ci spiega meglio Giuseppe Forte, direttore generale del CISIA. Allora, i test CISIA sono dei test online prevalentemente e si svolgono in diverse giornate dell'anno in aule informatiche universitarie. Ora, la particolarità dei TOLC peculiari, sono dei test diversi da studente a studente, quindi si possono ripetere, fare in momenti dell'anno diversi. Proprio per questa ragione stiamo realizzando proprio in questi giorni, in questi minuti, un progetto che possa prevedere la possibilità di fare il test a casa per ciascuno studente. E fine maggio, inizio giugno, inizieremo questa nuova modalità che consentirà ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno il test in anticipo, molti lo fanno in anticipo come strumento di orientamento e valutazione, di poterlo continuare a fare, aspettando che si possa via via riprendere una vita normale, ritornare in università con tutti i criteri, con tutte le precauzioni, affinché da luglio, agosto, settembre si possa ricominciare in via ordinaria. Voglia di normalità dunque, un po' quella che proviamo tutti noi in questo momento, ma intanto ci si organizza non solo per fare i test, ma anche per gli open day. È infatti arrivato il momento per gli atenei di farsi conoscere, di raccontare le loro proposte ai ragazzi degli ultimi anni delle superiori. Questa settimana è la volta dell'Università Cattolica di Milano, che si è inventato un'intera settimana di iniziative rigorosamente online. Ci racconta tutto la prorettrice Antonella Sciarrone Alibrandi. Sì, quest'anno ci siamo trovati di fronte a una situazione che ci ha imposto di ripensare completamente Open Day e orientamento. E abbiamo deciso di trasformare una situazione un po' difficile in una scommessa e anche in una opportunità, perché siamo partiti ed è questa settimana che ci vede impegnati sul fronte dell'orientamento delle lauree magistrali. E ne avremo due, poi seguiranno le triennali, ma il momento delle lauree magistrali è un momento molto importante, perché è quello dove gli studenti possono affinare, diciamo così, nel passaggio da triennale a magistrale il loro percorso di studi e andare a puntualizzare meglio le competenze, gli skill, in vista anche poi dell'inserimento nel mercato del lavoro. Allora, nell'impossibilità di poter presentare la nostra offerta formativa come al solito, diciamo così, abbiamo pensato di inventarci una settimana di una cosiddetta Open Week, Open Mind, nella quale su 6 giorni presentiamo ogni giorno con una serie di momenti in streaming su tutti i canali social sostanzialmente che l'università utilizza, quindi da LinkedIn a Twitter a Instagram, tutti presentiamo 2 facoltà e l'offerta formativa di quelle facoltà ogni giorno, una la mattina, una pomeriggio, e poi però abbiamo inserito, e questa è forse la cosa più nuova, abbiamo inserito nel palinsesto di tutte le giornate dei momenti di dibattito e di approfondimento di tematiche di estrema attualità, collegate ogni giorno con le facoltà che andiamo a presentare. Per fare un esempio, la giornata nella quale vengono presentate la facoltà di scienze bancarie e la facoltà di scienze matematiche, ci sarà un dibattito che riguarda il tema degli algoritmi, della tecnologia, dei big data e della sua centralità in una situazione difficile come questa. E così via, la giornata nella quale si parla di comunicazione, di lettere, approfondiremo il tema appunto della comunicazione, dell'online e di tutte le difficoltà e anche le opportunità che questi strumenti portano con loro. E quindi abbiamo voluto rendere, diciamo, queste giornate tutte costruite sull'online un'occasione non soltanto di presentazione della nostra offerta formativa specifica, ma un momento nel quale chi ci segue, in particolar modo gli studenti, possano rendersi meglio conto di quali sono i nuclei tematici caratterizzanti le varie discipline, e quindi possano orientarsi con la O maiuscola, cioè cercare di comprendere per quanto possibile qual è il percorso, qual è la strada che più consona ai propri interessi, alle proprie inclinazioni, alle proprie capacità e anche a quello che il mercato del lavoro oggi chiede. Quindi non più aule affollate di ragazzi, spesso anche di genitori che vogliono capire quali sono le offerte dell'università, non più le visite in giro per l'Ateneo. Tutto si svolge online con un'offerta molto ricca come quella che ci stava raccontando. Ma la voglia di tornare all'università ai tempi prima del coronavirus è tanta oppure state raccogliendo la sfida? La voglia di tornare è tantissima. Devo dire che per tutti noi studenti e docenti che continuiamo a rimanere in contatto e in relazione attraverso l'online, per tutti noi però c'è proprio un enorme desiderio della ripresa delle relazioni umane in presenza. Come tutte le situazioni di sfida, però, appunto, ci hanno spinto a reinventarci, a costruire qualcosa di nuovo e di buono che magari, appunto, accompagnato alle relazioni in presenza, può anche rimanere per il futuro. Pensavamo proprio avere la possibilità di ascoltare, di confrontarsi con docenti, studenti, esperti, e tutto sommato senza dover fisicamente raggiungere l'università in una fase di orientamento può anche essere una cosa positiva. E che cosa si perde invece in una presentazione di un'università attraverso degli streaming, attraverso l'online? Quale può essere invece l'elemento negativo? Io credo che la cosa che si perde, o quantomeno se non si perde, si riduce tantissimo, è la percezione dell'ambiente. Cioè io penso che entrare in università, sedersi in un'aula dell'università, ma soltanto camminare per i corridoi, nei chiostri, significhi respirare, sentire, avere un'esperienza diretta, diciamo così, di quello che l'università è e di come si pone. Questo clima io credo che, per quanto si possa essere estremamente abili e efficaci con l'online, sia più difficile da far percepire. Ecco, il profumo senso, anche, il profumo, no, dell'aula, esatto, universitaria. Esatto, il profumo dell'aula universitaria è qualcosa che si fa fatica, è un'esperienza anche sensoriale che è molto difficile riuscire a canalizzare nell'online. In attesa dunque di tornare a respirare l'atmosfera vera delle università, è tutto per la puntata di oggi. Questo e gli altri podcast di Verso il Futuro e Oltre li trovate sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Questo mese il tema è proprio la didattica a distanza nelle università, come queste si sono organizzate, come si stanno organizzando in vista di test d'ingresso, esami scritti, insomma, come uscire dall'emergenza. Prima di chiudere vi ricordo che domani, 17 aprile, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore una guida dedicata ai MOOC, i corsi di didattica online che si possono seguire sia all'università sia per la preparazione ai test, un mondo in grande sviluppo in questo periodo. Un saluto da Maria Piera Ceci.